eravamo rimasti all'idea di costruire una chimica fatta con le cose che si coltivano sostanzialmente nei campi. Ecco, questo era un po' perché ovviamente, lo ripetiamo brevemente, nel campo io semino qualcosa, lo utilizzo per fare composti chimici, ma il prossimo anno ce lo posso riseminare e quindi non è come il petrolio che si consuma e una volta che si è consumato è finita. Tutto sommato, questo è uno degli aspetti fondamentali. E nel dire questo, avevamo accennato all'idea di utilizzare per esempio lo xilosio come partenza, molecola di partenza per fare le nostre molecole. Lo xilosio ha un certo numero di atomi di carbonio, vedi? 1, 2, 3, 4 e 5, quindi è un pentoso, un aldo pentoso. Nella nomenclatura degli zuccheri si chiamano così. I glucosidi sono sostanze che hanno un certo numero di gruppi funzionali, che sono tanti. C'hanno tanti OH e hanno un gruppo carbonilico, di solito o aldeidico o chetonico, quindi sono aldo, in questo caso pentosi, o che ne so, cheto pentosi. Ma posso essere tetrosi, possono essere esosi, cioè il glucosio è un esoso perché ha 6 atomi di carbonio. Un aldo esoso perché ha un gruppo aldeidico in alto, CHO, tanti gruppi OH fino ad arrivare in fondo. Per convenzione si scrive, per chi non lo sapesse, è una convenzione, il gruppo aldeidico sempre in alto, in verticale, e in basso il gruppo CH2OH. Sostanzialmente, vi rimando poi a quelli che sono corsi che non farete mai, che sono corsi di sostanze organiche naturali, nei quali di solito si insegnavano, quando questi corsi esistevano, tutte queste belle cosette. Ora invece il chimico di Pisa sostanzialmente esce dall'università senza sapere che cos'è uno zucchero. Quindi ho bisogno di dirvi alcune cose, soprattutto i glucosidi hanno, oltre che questa struttura polifunzionale, una serie di caratteristiche che sono legate agli atomi di carbonio che hanno una certa simmetria. Questo ci permette di utilizzare, volendo, anche questi composti naturali come partenza per fare cose interessanti, utilizzando anche, come vedremo in qualche esempio, magari già il preordinato gruppo chimicamente attivo che ci serve per fare le nostre reazioni. Cioè utilizziamo queste molecole come sintoni chirali, cioè chironi, è una nomenclatura, poi voi se volete ve ne potete anche fregare, però si chiamano così. Su qualche libro di quelli anziani che scrivono la chimica organica come deve essere scritta, questa roba c'è scritta. La cosa interessante è che noi possiamo, e ve lo sintetizzo un'altra volta, su questa lavagna effettuare innanzitutto la chiusura a 5 termini dell'anello che si forma, quindi così un anello di natura tetraidrofuranica, 3, 4 di idro, 2 carbaldeide, 3, 4 di idrossi, scusate, 2 carbaldeide furano, tetraidrofurano. Ecco, questo sarebbe, se vogliamo chiamarlo, uno dei possibili nomi. Successivamente comprendete che è facile immaginarsi la presenza di un disidratante che toglierà l'acqua e noi ci siamo fatti la 2 furil carbaldeide, chiamata dagli amici anche furfurale. Sapete che il furano è molto sensibile agli elettrofili perché è una molecola eterociclica, eteroaromatica, ma con poca aromaticità, quindi l'H+ la devasta sostanzialmente, ma la presenza di un gruppo elettrone attrattore, cioè disattivante alle sostituzioni elettrofile, non permette che l'H+ agganci il furano Furano, disattivato rapidamente, e ne fa di questa molecola, la 2-furilcarbaldeide, una molecola abbastanza stabile che possa essere utilizzata, e ovviamente sarà utilizzata per farci una miriade di cose. Se te ci pensi bene, si può fare il 2-metil-tetraidrofurano. 2-metil-tetraidrofurano che è, guarda caso, un solvente della Green Chemistry che sostituisce il tetraidrofurano. Quindi il 2-metil-tetraidrofurano si fa gratis, con poca spesa, dall'oxilolo. Dall'oxilosio. Posso usare anche il lixosio, che è come l'oxilosio, ma c'è un atomo di carbonio vicino al gruppo carbaldeidico che ha una attività ottica differente, cioè l'epimero dell'oxilosio. Qui, come vedete, in questa sintesi a noi ci frega poco di come sono messi gli OH. Allora perché vi dico si parte dall'oxilosio? Perché l'oxilosio ce n'è di più in giro nelle sostanze dalle quali noi lo estraiamo, e quindi costa poco, tutto lì. Perché in questo momento non ci interessa l'attività ottica, quindi la buttiamo un po' via questa attività ottica, la sprechiamo. Questa molecola come si può ottenere? Si può ottenere facendo la idrogenazione della furilcarbaldeide a tetraidrofuran 2-carbaldeide. La tetraidrofuran 2-carbaldeide ha ancora un gruppo CHO che deve essere ridotto, quindi si prevede che si debba conoscere un sistema per ridurre un aldeide a alcano. Vedete come quelle reazioni che noi utilizziamo poco a chimica organica 1 possono venire utili, cioè la reazione di Clemmensen, zinco e acido cloridrico, o la reazione di Wolf-Kirchner, variante Wang-Milnon, cioè idrazina e OH-, possono essere utili per trasformare in questo contesto un CHO in CH3. Non sono gli unici sistemi, ce n'è anche un altro, vi ricordo, per trasformare un gruppo carbonilico in alcano se ne fa il ditiano, e il ditiano si idrogena con nickel ranei. Il nickel ranei è quella molecola che è molto sensibile al legame carbonio-zolfo e lo trasforma in carbonio idruro, cioè carbonio idrogeno. Sembra non essere conveniente da un punto di vista di Green Chemistry trasformare un aldeide in alcano, perché l'aldeide costa di più dell'alcano, ma in questo modo non se ne può fare a meno, e quindi per fare il 2-metil tetraidrofurano o così o pomì. In alternativa avremmo potuto fare la riduzione dell'aldeide ad alcol, l'alcol l'avremmo potuto trasformare in tosilato, e il tosilato l'avremmo potuto trattare con sodio idruro, H- nucleofilo, e lo faccio vedere qui da parte. La sequenza è questa: RCHO con litio alluminio idruro lo trasformi in alcol, l'alcol ne fai il tosilato lo tratti con un idruro nucleofilico capace di fare questo, RCH3 più tosile O meno. Questo lo puoi fare, questo è ammesso. L'idruro H- usa il sodio idruro, perché io usi il litio alluminio idruro? Eh no, il litio alluminio idruro potrebbe fare un'altra cosa. Il litio alluminio idruro potrebbe in alcuni casi andare a fare il nucleofilo sullo zolfo e quindi poi ripristinare l'alcolato dalla parte di là si ottiene questo composto di cui te non sai cosa fartene, cioè invece del fenolo, il tiofenolo parametil, perché in posizione para c'è un gruppo CH3, che è del paratoluensolfonato originario. Vi ricordo che il gruppo SO3, SO3H, è un gruppo soft, quindi l'H- come nucleofilo, che è soft, attacca lo zolfo, sovente. Quindi bisogna stare attenti, tutto sommato. Bisogna cercare di utilizzare un idruro, per esempio l'idruro di borio, possibile. NADH4 sicuramente va meglio in questa reazione perché sposta il gruppo tosilato, che in quel contesto sembra uno pseudoalogenuro, cioè qualcosa che si comporta come un cloro, un Cl- che esce. Cl- esce bene perché il gruppo uscente è una base debole. Quindi l'acido cloridrico è un acido forte, l'acido paratore solfonico è un acido forte, quindi il tosilato esce bene. In questo contesto il tosilato viene identificato dai libri vecchi di chimica organica come uno pseudoalogenuro, qualcosa che assomiglia all'alogenuro. Capite che c'è un sacco di passaggi da fare così, forse se hai paura che lo zinco e l'acido cloridrico ti produca dei problemi, idrazina sicuramente e OH- produrranno sicuramente un risultato migliore, ma non è detto che si possano utilizzare anche altri sistemi. Comunque sono tutti metodi industriali e quindi tu arrivi in fondo al 2-metiltetraidrofurano alla grande, ma è evidente che te puoi utilizzare questo composto per farci anche l'acido corrispondente. Puoi utilizzare questo composto per fare una reazione di Wittig e quindi ottenere CH, scriviamolo così, CH2 o qualcos'altro, cioè comunque un alchene, che poi può essere utilizzato per ottenere altre cose, gruppi così. Tutte le volte che io scrivo l'anello tetraidrofuranico senza aromaticità, tenete presente che io posso fare queste reazioni mantenendo l'aromaticità, quindi non solo anelli tetraidrofuranici, ma anche anelli furanici, veri e propri. Posso fare quindi un sacco di cose. La cosa che mi preme farvi vedere da questo approccio è la seguente. C'è un motivo del perché questa reazione, cioè a partire dall'ossilosio si ottiene la furilcarbaldeide, la 2-furilcarbaldeide. Perché? Si potrebbero ottenere altri prodotti e noi possiamo ottenere altri prodotti, soprattutto nel primo step della reazione, che è quello di chiusura del ciclo a 5 termini. Nella chiusura, cioè in forma non piranosidica ma furanosidica. Cioè, chi l'ha detto che questo H si chiude con questo H? Non si potrebbe chiudere con questo, o chiudere con l'aldeide per fare un anello a 6, che di solito sostanzialmente è molto stabile. Primo aspetto della questione. Secondo aspetto della questione, mandando le cose un po' come devono essere mandate, sostanzialmente qui, togliendo acqua o una catalisi acida, si ottiene un composto che è aromatico. Bene, questo è la driving force del perché le cose vanno in questa direzione. Andranno anche in altre direzioni, ma te in questo contesto non te ne accorgi. Primo punto. Secondo punto, che, e quindi sono tutti equilibri, e noi ci dobbiamo chiedere poche cose. Ma una cosa ve la devo dire. In realtà questo composto è in equilibrio anche con la sua forma furanosidica, cioè che la scrivo qua. 1, 2 e se non sbaglio 3. Ecco, questo sarebbe il composto che viene fuori, verrebbe fuori se si chiudesse il ciclo in forma A6. Questo ciclo in forma A6 è sicuramente molto più stabile di questo ciclo a forma A5. Perché? Perché non solo è a 6 centri, quindi l'angolo di ibridazione corrispondente a un carbonio sp3 è più rispettato, è più vicino rispetto alla classica ibridazione di un atomo di carbonio sp3, che non un angolo più tensionato, diciamo così, se l'anello si chiude a 5. Inoltre, quindi a 6 più stabile, inoltre abbiamo anche un effetto anomerico molto forte. L'effetto anomerico, ve lo ricordo, è quello che prevede che un eterociclo di questo tipo, in forma piranosidica, anche senza tenere presente dei gruppi che sono appiccicati qua, che sono gli altri tre gruppi OH, che faranno tra di loro legami a ponte idrogeno. In ogni caso, questo orbitale di antilegame carbonio e ossigeno dell'atomo anomerico, che è questo, vuoto, è in sovrapposizione con questo signore qui, che è pieno, e per effetto anomerico, effetto stereoelettronico, ci guadagna 3, 2, 5 calorie, kilocalorie, per mole. Tanta roba. E nonostante che l'OH sia sicuramente in una situazione in cui ha una pressione sterica forte dalla cosa che è appiccicata qui, o idrogeno o OH che sia, nonostante che lui senta l'idrogeno che è attaccato qui in posizione opposta, creando una situazione 1-3-5, se vogliamo, chiamiamola così, 1, che sì, in realtà è 2-4-6, ma insomma il concetto è questo, nonostante tutto questo signore se ne frega della sterical hindrance, dell'ingombro sterico, di tutto ciò che accade, ma vince l'effetto stereoelettronico. Sto mettendo degli elettroni di un orbitale pieno in un orbitale vuoto, facendo in modo che questi elettroni si stabilizzino abbassando la loro velocità e quindi abbassando la loro energia intrinseca della molecola. Questo è l'effetto anomerico studiato da Lemieux 1952. Perché quindi questa reazione non prende questo giro? Non prende questo giro in quanto dobbiamo capire una cosa fondamentale, che la prima cosa che succede in questa reazione è non la cosa termodinamica, cioè la cosa che ci piace, ma è la cosa cinetica, cioè la cosa che avviene prima. E sovente nelle reazioni organiche non è detto che queste due cose coincidano. A volte sì, a volte no. C'è un percorso termodinamico e c'è un percorso cinetico. Ora, tutti questi equilibri che portano alla chiusura di questi composti sono sotto forma di equilibrio termodinamico, e su questo non c'è dubbio. Però c'è qualcosa che accade prima, e questo qualcosa che accade prima è la chiusura a 5. Perché a 5 si chiude prima? Cioè, ma quindi se io lo lascio per tanto tempo potrei... Se lo lascio per tanto tempo senza togliere l'acqua si ottiene assolutamente questo. Non c'è ombra di dubbio, quindi... Questo è anche fonte di questo signore, che può essere utilizzato per farci tutti i miei prodotti che voglio. Questo lo posso ottenere, basta che lascio andare le cose così, senza scaldare rapidamente e senza togliere l'acqua. Qui invece devo scaldare e togliere l'acqua molto velocemente. Ecco, è solo un problema di condizioni di reazione, temperatura e disidratante utilizzato. Si tratta di fare delle prove, le prove sono state fatte, quindi le condizioni sperimentali per ottenere tutti e due ci sono. Allora, perché in questo caso noi un po' ce ne freghiamo? Perché mettiamo tutto, lasciamo tutto in condizioni termodinamiche, ma facciamo in modo che si formi il prodotto termodinamicamente stabile, quindi questo. E lo facciamo rapidamente. Ovviamente. Siamo fortunati perché non ci fermiamo qui, ma ci fermiamo al prodotto aromatizzato. Questo, in ogni caso, in queste condizioni di reazione, porta il prodotto a formare la 2-carbaldeide, furan-carbaldeide, la 2-furan-carbaldeide, il furfurale, insomma. Quindi, da un punto di vista X, questo prodotto, proprio perché è termodinamicamente favorito, per un caso è più stabile di questo. È vero che questo è più stabile di questo signore qui. Su questo non c'è dubbio. Quindi, se io non tolgo l'acqua, io ottengo questo subito, ma subito dopo questo si riapre e io otterrò il prodotto a 6 termini. Quindi, tutte le volte che io ho un glucoside, come il glucosio, e lo butto nell'acqua, la prima cosa che succede è che non si forma l'anello a 6, fenomeno di muta rotazione degli zuccheri, eccetera, eccetera, ma si forma l'anello a 5. E te non te ne accorgi perché lasci stare le cose così, il giorno dopo vai a vedere cosa è successo e c'hai l'anello a 6. In realtà si forma subito l'anello a 5 e te lo puoi utilizzare questo. Perché l'anello 5 è l'anello non tanto termodinamicamente, ma cineticamente più favorito. Rimane da comprendere perché questa cosa accade. Bene, questa cosa accade perché esiste un signore che si chiama Baldwin, inglese, che ha studiato e ha pubblicato le cosiddette regole di Baldwin. Le regole di Baldwin sono regole che ci dicono in un ciclo, questo ciclo come si formerà quando ci sono più possibilità. Allora, ammettiamo di avere la seguente situazione. Di avere una catena di CH2, tanti, non lo so quanti, e questi CH2, in questa catena, da una parte c'è un epossido in chiusura, in finale della catena, e dall'altra parte c'è un alcolato, che io mi sono fatto a partire da un alcol, che ne so, con il sodio idruro. Allora, succederà così o succederà così? Quando l'alcolato attaccherà l'epossido. Allora, il problema è questo. Facciamo un caso semplice. Prendiamo questo composto e scriviamo tutti e due i prodotti di reazione. Uno è questo. 1, 2, 3, 4. E fuori il CH2O-. Dall'altra parte, sotto, scriviamo quello che si ottiene così. E sarà così, così, vedete, o meno. Bene, vi posso assicurare che se ne forma uno solo. La nomenclatura dice che questa è una reazione 1, 2, 3, 4, 4 eso tet. Ora vi dico cosa vuol dire. E questa è una reazione 5 eso tet. E te dirai. E allora? Allora, innanzitutto cosa vuol dire la nomenclatura? 4 è il ciclo che si forma a 4 termini, 5 è il ciclo che si forma a 5 termini. Esociclico è il tipo di legame che si è rotto. Esociclico, vedi? Cioè, il legame che si è rotto non appartiene al ciclo. Quindi è un eso. E ha agito, il nucleofilo che è entrato, su un atomo di carbonio tetraedrico. 5 esotet o 4 esotet. Bene, le regole sono legate al fatto che il più veloce dei due meccanismi è quello in cui gli orbitali pieni e gli orbitali vuoti si sovrappongono meglio. Allora, questa è una reazione di sostituzione nucleofila, quindi sostanzialmente una reazione in cui un RO- agisce con un COR e butta fuori questo. È una sostituzione nucleofila. Quando è che questa sostituzione avviene bene? Quando questo orbitale qui si sovrappone bene con questo orbitale qui, vuoto di antilegame. La maggiore sovrapposizione prevede che ci sia una minor numero di urti efficaci necessari a portare avanti la reazione, quindi una velocità più bassa. La lunghezza di questa catena prevede che questo ossigeno sia, a seconda della lunghezza, come un aereo sulla pista, più o meno parallelo e sovrapponibile all'orbitale dell'atomo di carbonio che deve subire la sostituzione nucleofila. Se è troppo corta la catena, i due orbitali non si sovrappongono. Se è troppo lunga, i due orbitali non si sovrappongono, ma se è della lunghezza giusta, l'orbitale si incasterà pieno perfettamente con l'orbitale di antilegame del gruppo che deve uscire. Se ne evince che il ciclo A4 è più veloce del ciclo A5 a formarsi. E te avresti detto, ma no, perché il ciclo A5 è quello più stabile. È vero che è quello più stabile. Se la reazione però non è reversibile, come in questo caso, ti pigli il ciclo A4, perché indietro non si torna. Oh, che meraviglia! Questa è la ragione fondamentale per cui un ciclo A5 nella chimica dei glucosidi è più facile da formarsi che non un ciclo A6. Perché? Vediamo com'è la situazione. Te hai un aldeide qui e un alcol qui. La sostituzione nucleofila prevede che tu ottenga alla fine questo. Quindi sarà un N, la reazione sarà N, dicendo N 5 o 6, dipende dal ciclo che si ottiene, eso, perché il legame che si rompe è esociclico, eso, trig, perché è trigonale il legame su cui io sono andato a sbattere. La 5 esotrig è più veloce della 6 esotrig. Per questo, da un punto di vista cinetico, si formano prima i furanosidi e poi, se la reazione può tornare indietro, con calma i tiranosidi. Perché se non si può tornare indietro, ti pigli i furanosidi, anche se ti sembrano meno stabili, e giustamente lo sono. Allora, avete capito? Facciamo qualche altro esempio solo per farvi capire, che ne so, la nomenclatura di questa reazione. Tu c'hai un alcolato. Questo alcolato reagisce sul triplo legame. E quello che può fare nella chiusura è questo prodotto. Però potrebbe fare anche quest'altro prodotto. Andare qui e fare così. Queste sono le due possibilità. La prima possibilità è una 6 endo dig, perché è digonale il legame su cui ho agito ed è endociclico il legame che si è rotto. In quest'altro caso io ho una 5 eso dig. Tra una 6 endo dig e una 5 eso dig, la 6 endo dig è favorita. Quindi in questa reazione di Bohrde, che è poi la reazione di un alcolato con un alchino, sostanzialmente, magari voi non l'avete mai vista, si chiama così, serve per fare i vinileteri, ed infatti, guarda, si ottiene un bel vinilettere qua, questa reazione potrebbe essere fatta in questo modo, ma delle due possibilità, tranquilla, perché te c'hai solamente questa. Quindi, N eso o endo, tet, trig o dig. Numero degli atomi che ci sono nel ciclo che si forma è il primo numero. 2, eso o endo, il legame che si è rotto dal ciclo, trig per sapere il trigonale, tet per tetraedrico e dig per digonale, che sono l'SP3, l'SP2 e l'SP. L'ibridazione degli atomi di, in questo caso, carbonio, che vengono presi in considerazione. non l'avevate mai saputo, ma si può capire esattamente prima che cosa accadrà in questa reazione di ciclizzazione. Bene, queste reazioni sono quelle che noi facciamo in questo contesto con i glucosidi per farci le cose che vogliamo fare. Analogamente quindi, possiamo usare altri glucosidi che ci potranno servire per fare un sacco di cose. Uno di questi glucosidi è il fruttosio, ovviamente il difruttosio perché è quello di cui ne abbiamo di più, cioè quello che costa di meno, se vogliamo. Quindi, dunque, sì, OCH2OH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, CH2OH. Benissimo, questo è il fruttosio. Il fruttosio è un esoso, ma è un cheto esoso, ovviamente. Benissimo. Quando noi lo scaldiamo nelle opportune condizioni, possiamo ottenere o la chiusura di questo gruppo idrossile sul composto carbonilico o la chiusura di questo. Bene, se noi facciamo la reazione in condizioni veloce, cioè scriviamolo così, sì, circa 2 OH, qui scriviamo CH2OH, otteniamo la chiusura a 5, qui ci sarà un idrogeno e qui ci sarà il gruppo OH, così. Otteniamo questo. Noi stiamo facendo una reazione veloce. Se facciamo questa reazione veloce, noi ci troviamo qui una cosa interessante, guardate. CH2OH. Guardate che queste sono reazioni di green chemistry, quindi devono essere reazioni che hanno un alto guadagno sull'efficienza dell'atomo di carbonio. Non dobbiamo buttare via nulla. E noi che cosa sappiamo? L'abbiamo detto una delle prime volte che ci siamo visti, che questi tipi di reazioni sono le trasposizioni. E abbiamo fatto alcuni esempi. Quando io tratto con l'H+, ed è quello che sto facendo, perché la catalisi per fare questa reazione è una catalisi comunque acida, perché innanzitutto sto per togliere dell'acqua, e quindi mi ci vuole una catalisi acida. Poi devo fare questo tipo di operazione, cioè devo fare l'emiacetale. L'emiacetale si fa solo se l'H+ si complessa al carbonio carbonilico, perché tutte le reazioni sono fatte in modo tale che due cose devono reagire. Se le due cose sono neutre, non reagiscono. Se una è più delta e l'altra è meno delta, non gliene fa una mazza niente. Invece, se una delle due è attivata, in questo caso l'attivazione è del gruppo carbonilico. In altre parole, vi ricordo che io, se ho un alcol che reagisce con un chetone per dare questo, la devi vedere come una reazione di addizione al doppio legame carbonio-ossigeno di un O meno delta e di un H più delta. È la stessa reazione che è la reazione di addizione ad un alchene, non c'è nessuna differenza, di un alchene di questo tipo. Che cosa fa l'H+? L'H+ va qui e porrà la sua carica positiva qua sopra. L'H+ cosa fa? Va qui e pone la sua carica positiva qua sopra. In questo contesto l'ossigeno entra qui e entra qui. Ho dovuto rendere positivo qualcosa che era solo più delta, perché se non faccio niente non succede niente, o meglio succede poco. Quindi questo che è un equilibrio lo sposto di qua, però mi ci vuole la catalisi acida, se no gnafa. Guarda che l'alchene e il chetone sono la stessa cosa, esistono solo tre gruppi funzionali, legame semplice, legame doppio, legame triplo, il resto è tutta fantasia. Cambieranno le condizioni di reazione, uno sarà polarizzato, hard il CO, l'altro sarà soft, carbonio-carbonio, non polarizzato, però vedete che la reazione è la stessa. Beh, nel fare questo quindi ci vuole la catalisi acida. Questa catalisi acida mi porta ad avere un diolo 1,2 pronto per fare una cosa che si chiama la trasposizione pinacolica. Io non so se voi abbiate un'idea della trasposizione pinacolica, però vi dico che quando un H+ attacca qui, tra le varie cose, tra questi due signori, può complessarsi attaccando quello che sarà questo ossigeno rispetto a questo, ma vediamo perché, perché sennò qui si dice una cosa che non è corretta e anche se non è scritta da nessuna parte bisogna che ve la dica. Lo H+ si può attaccare da tutte le parti e si attaccherà da tutte le parti, ma la reazione di equilibrio, noi dobbiamo trovare quella tra tutte le reazioni possibili che vada verso una direzione in cui si otterrà un prodotto stabile termodinamicamente. Quindi io non vi dico che le altre cose non succedono, vi dico che se succede questa poi andiamo avanti. E vedete subito che andiamo avanti bene qua alla grande, perché si forma un carbocatione eterosostituito secondario. Che scrivo? Cosa vuol dire eterosostituito? Allora, OH, scriviamo tutti i pezzi che non ci servono, CH OH più. Eterosostituito perché qui ci sono due doppietti che volendo possono dare la formula limite di risonanza fondamentale che rende questo carbocatione più stabile di un carbocatione terziario. I carbocationi eterosostituiti da elementi come l'ossigeno, lo zolfo, l'azoto, che hanno doppietti di elettroni, sono stabilissimi, molto di più di un carbocatione terziario. Teniamolo presente questo fatto. Una sola formula limite di risonanza vale più di tre effetti iperconiugativi. Beh, chissà perché anche questo non c'è scritto, ma chiaramente quello che succede a questo punto, scriviamolo per benino, è che questo doppietto di elettroni può andare qui, questo sotto forma di idrogeno idrurico può migrare, perché una delle cose che fanno i carbocationi è trasporre. Allora qui non c'è nient'altro da trasporre che un idruro, facciamoglielo trasporre, poverino. E perché avviene questa trasposizione? Che cos'è la trasposizione? È un equilibrio. Un equilibrio che noi conosciamo. Per esempio, quando abbiamo detto che si forma un carbocatione primario, se si dovesse formare, esso traspone immediatamente in un secondario, in un terziario, rapidamente. È la cosa più veloce che c'è, perché il carbocatione terziario è più stabile del prodotto di partenza. Poi, con calma, il terziario si fa i cazzi suoi. Bene, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando io ci ho messo un idrogeno qui ci ho messo un CH+, scritto così, vedi che questo è un ione carbossonio che ha una formula limite di risonanza, quindi ha una stabilità della Madonna perché può essere stabilizzato dalle sue formule limite di risonanza. Ammetti, quindi questo si forma volentieri, ammetti che questo sia anche un equilibrio, ma nell'istante in cui ciò accade, l'H+ si può staccare, si attacca di qua e qui ci ho messo un idrogeno, vedi questo idrogeno qui? Ora, scriviamolo per benino, l'H+ che si forma può togliere acqua qui e acqua qui, cosa che prima non poteva fare perché qui l'idrogeno non c'era. Una volta che ci ho schiaffato l'idrogeno, io ottengo una mia meravigliosa formula di questo tipo che fa da driving force perché è diventata aromatica e si porta dietro tutti gli equilibri della mia reazione. Stra green chemistry, l'unica cosa che ho buttato fuori è acqua e ho fatto una reazione di trasposizione. La trasposizione pinacolica è una delle trasposizioni più interessanti da un punto di vista industriale che si ottiene sugli alcoli 1,2 di sostituiti. Si chiama pinacolica, lo dico per quelli che non l'hanno fatta, perché si fa sul pinacolo. Il pinacolo è questo alcol qui, partiva da questa, storicamente, questa reazione. Benissimo. Quindi rendetevi conto che su questo Pinacol, reazione Green Chemistry, te non hai problemi, perché qualsiasi degli OH attacca l'H+, si otterrà sempre la stessa cosa. Questo se ne va, questo dalla parte opposta dà la sua bella reazione e te ottieni il terziar butil metil chetone in un colpo solo, che non è male. Tieni presente che tutte le volte che tu hai gruppi diversi qui e un diolo 1-2 nel mezzo che subisce la trasposizione pinacolica, devi verificare quale dei due OH verrà protonato rispetto a quale carbocatione più stabile si formerà e qual è l'equilibrio conformazionale dell'intermedio di reazione, perché nella reazione di trasposizione anionotropica che si forma, cioè io mi porto dietro il mio doppietto di elettroni con la mia chiralità che non viene distrutta, quale di questi signori sarà antiperiplanare all'orbitale vuoto? Te lo dico in 4 secondi, perché è solo per farti capire l'importanza di questa reazione, che è importante perché te, alla fine, anche se puoi ottenere tanti prodotti, ne ottieni uno solo. Quindi, dal punto di vista industriale, piatto ricco mi ci ficco. L'industria cosa non vuole? Non vuole che tu ottenga una miscela di prodotti, perché devi spendere un sacco di soldi, di fatica, di tempo nel purificare i prodotti, che è una rottura di palle già in laboratorio eccezionale, figurati su un impianto. Allora, io c'ho qui, fai conto, facciamo un esempio, fenile CH3 OH CH3 C H2, mettiamoci un fenile qui, OH. La prima cosa che succede è devi capire di questi due chi farà cosa. Allora, l'H+, allora questa è una cosa che non c'è scritta su nessun libro, ma sottolineatela perché è importante. L'H+ si aggancia sempre, per problemi sterici, al doppietto di elettroni di quell'alcol o di quell'etere stericamente meno ingombrato. Basta un metile per fare la differenza. È come se io dicessi, io ho una molecola con due gruppi eterei, uno c'è un etiletere e un altro c'è un metiletere, ci metto l'H+ stechiometrico per poterne complessare uno solo, si complessa solo il metile, l'etile non viene neanche guardato, anche se si potrebbe pensare che sono equilibri, l'etile non viene neanche guardato, però dopo bisogna vedere che succede, perché se la protonazione dell'ossigeno può dare origine a un carbocatione stabile, questa cosa accade velocemente. Se non può dare origine a un carbocatione stabile, finisce lì la storia, perché il protone si ristaccherà e un protone su un miliardo attaccherà l'etile. Se dietro all'etile c'è un carbocatione che si sta per formare stabile, l'etile si stacca subito. Quindi ci sono due aspetti fondamentali. Il primo è, vediamo io che sono H+ dove mi attacco. Due, vediamo il carbocatione che si forma dopo. Allora, in questo contesto, tutto ciò sui libri non c'è scritto, però ora siamo al quarto anno, se può anche dire. Questo potrebbe essere stericamente meno ingombrato, va bene? E io otterrei un carbocatione, dopo che si stacca questo, che è terziario benzilico, cioè no benzilico, terziario e basta. Invece, quando questo qui che è più stericamente ingombrato si stacca, dopo ottengo un carbocatione terziario ma anche benzilico. Quindi subito questo procede nel dare questo carbocatione, anche se l'H+ ha più voglia di attaccarsi qua. E qui bisogna vedere, che cosa succederà? Quale gruppo preferisce staccarsi? Ci sono due aspetti fondamentali, uno sterico e l'altro elettronico. Come è fatta questa molecola qui? Allora, questa molecola qui è fatta così. Scriviamola come in realtà deve essere scritta. Qui c'è il fenile, qui in avanti c'è il CH3 e qui c'è l'orbitale che contiene la carica positiva. Qui ci posso mettere i miei tre pezzi. Uno che sarà l'OH, uno che è il CH3 e uno che è il benzile. Allora, il benzile qui e qui ce lo metto male, perché qui c'è il fenile che è bello grosso. Quindi il benzile lo metto qua. Qui ci posso mettere l'OH o lo posso mettere qui, però se l'OH lo metto qui non succede nulla. Perché? Perché il gruppo che migra, per ovvie ragioni, deve essere antiperiplanare, perché il doppietto di elettroni deve entrare in questo orbitale qua. Quindi, sulla base sterica ed elettronica, sarà il metile che io prevedo migrerà lì. Reazione di trasposizione pinacolinica, reazione Green. Ne approfitto perché è una reazione Green, se no tutta sta pappardella non ve la facevo. All'organica 1 questa qui non la faccio più da tempo, perché se mi metto a fare cosa che si faceva nella chimica che noi facevamo ai biologi, perché ai biologi tutte queste cose gliele raccontavamo. I biologi hanno un solo esame di chimica, quindi nell'esame di chimica organica che avevano c'era tutto dentro. Ma erano anche 90 ore di lezione e 24-25 ore di laboratorio una volta. Invece ora il corso di chimica organica 1 per i puri è diventato 48 ore, praticamente con un laboratorio risibile. Bene. Torniamo quindi alla nostra reazione. Abbiamo fatto la trasposizione pinacolica o pinacolinica, che si voglia. La driving force è stata che, sì, sono tutti equilibri, tolgo acqua, va bene, ma la cosa fondamentale è che io ottengo una molecola come questa che è aromatica e viva. Cosa ci posso fare da questa molecola qui? Ci posso fare un sacco di cose. Mettiamola al centro della nostra attenzione. CHO, CH2, OH. Quindi, noi possiamo ottenere composti di questo tipo così. Dove X che cosa può essere? X può essere OH, X può essere alogeno, X può essere COOH, X può essere NH2, ma posso fare anche, quindi, roba simmetrica che viene utilizzata come criptando. Vedete che è una specie di tenaglia che ha in fondo due gruppi che possono essere complessanti di quello che ti pare o costruttori di cose più grosse, tipo molecole anche cicliche, che vengono solamente usate per criptare i metalli di transizione e vengono, anche perché c'è un ossigeno qui nel mezzo che ti aiuta tanto con il suo doppietto di elettroni, quindi molecole che hanno la capacità, a seconda del tipo di metalli di transizione che te utilizzi, lo criptano, e questo serve per togliere i metalli di transizione dalle soluzioni acquose che te hai, per esempio, determinate anche da inquinamento. Cioè nel mare viene buttato fuori qualcosa che deve essere eliminato, questi composti sovente appaiono essere criptanti selettivi per certi tipi di metalli. Quindi li porti via in questo modo. Però possono essere anche oggetti di la molecola di partenza di altre cose. Tenete presente che questa io la posso ossidare anche questo ha un CHO-CHO. Quindi, dopo aver fatto una bella reazione di Wittig, metterci un R qui e un R primo qua e fare dei furani 2, 5 di sostituiti di alchil diversi. Lavorare sui furani non è facilissimo, perché fare una reazione di Friedel e Kraft sul furano prevede che il furano sia stressato dalla presenza di acidi di Lewis, quindi molte volte, soprattutto quando sul furano c'è già un gruppo alchilico che diventa ancora più attivante, non ce la fai la reazione di Friedel-Crafts con la R, eccetera. Quindi devi usare dei trucchi. In questo contesto non passi attraverso la Friedel-Crafts e ti fai quel furano che vuoi te, che ti serve. Tenete presente che qualsiasi anello furanico può essere intercambiato con un pirrolo o con un tiofeno. Ci sono dei trucchi. Perché si può trasformare un furano in tiofene? Si prende il furano, si fa reagire sostanzialmente con l'acido solfidrico, si forma acqua e lo zolfo entra nel mezzo dell'anello facendo il tiofene. Questo accade perché c'è un equilibrio. E perché l'equilibrio va verso il tiofene? Perché il tiofene è più aromatico del furano e quindi chiaramente da un punto di vista di acidità fa sparire quello che è l'acido forte, H2S, e butta fuori quello che è l'acido debole, H2O. Per fortuna torna tutto anche a livello di acido base, meno male. E il tiofene, nickel Raney, si smonta la molecola del tiofene, si riduce e te c'hai tra questi due gruppi che hai inserito qui 4 CH2 pronti per fare la catena che ti serviva magari. Quindi è un building block C4. Il tiofene viene identificato in questo modo. Una cosa meravigliosa. Pensate che si possono agganciare ovviamente gruppi funzionali diversi, 2NH2 qui per esempio, o un OH e un NH2 formano analoghi strutturali delle putrescine, che sono molecole, sono estremamente interessanti non tanto perché sono delle immortali, ma perché comunque sono dei criptandi mostruosi proprio per i metalli di transizione. Tutto ciò che viene fatto sull'anello furanico può venir fatto sull'anello tetraidrofuranico e quindi tu hai una marea di tetraidrofurani che puoi utilizzare nella chimica che avresti prima dovuto fare con la chimica del petrolio. Facciamo un altro esempio. Un altro esempio lo facciamo nella parte di sopra. Ritorniamo allora all'ossilosio, visto che l'ossilosio è una molecola un po' da bosco e da liena e ci facciamo tante cose. Lo riscriviamo. Allora, OH, OH, OH. OH, CHO. Questa volta facciamo reagire l'ossilosio con la fenilidrazina. Fenilidrazina, NH2, NH, fenile. Una sola molecola di fenilidrazina. Cosa fanno i glucosidi con la fenilidrazina? Se io ci metto tre molecole di fenilidrazina fanno una cosa che si chiama fenilidrazone. Ma io non ce ne metto tre di molecole, ce ne metto una sola. E se Dio vuole, faccio quella che è la reazione che io conosco dall'organica 1. Cioè l'addizione, l'eliminazione, se vuoi, di acqua, guarda come te l'ho scritta così formale, in ambiente acido, e quindi ci dovrò mettere il sale della fenilidrazina, che di solito è il solfato della fenilidrazina. Posso usare anche il cloruro, ma hanno due reattività diverse, il solfato e il cloruro della fenilidrazina. Se tu hai una lastrina di TLC e hai sintetizzato un aldeide o un chetone e vuoi vedere, seguire per via TLC la reazione, fai un prelievo del tuo prodotto, lo metti sulla lastrina e la lastrina scorre, separerai le macchie e una di queste macchie sarà il tuo prodotto carbonilico. Bene, Il tuo protocarbonilico non ha cromofori, è un alcano, non lo vedi neanche sotto la lampada UV. Cosa fai? Lo spruzzi con un apposito spruzzino, con un reagente che te lo mostri. Potrebbe essere la 2,4 di nitrofenidrazina, che sulla macchia reagisce dandoti 2,4 di nitrofenidrazone che è rosso, arancio. Bene, non usare la 2,4 di nitrofenidrazina solforica perché non si vede una mazza, diventa tutto marrone. Usa la 2,4 di nitrofenidrazina idroclorica, cioè punto HCl, perché la lastra si copre, spruzzata tutta di questa roba, di un leggero colore verdastro, chiaro, e la macchia rossa compare perfettamente. Quindi vedi che ci sono utilizzi differenti a secondo del controacido che è agganciato alla fenidrazina. In questo contesto usi quella solforica perché l'acido solforico ti aiuta, visto che devi eliminare anche l'acqua, chi meglio dell'acido solforico lo farà? E allora, quello che succede è la seguente cosa. Ora, poi vi dico, cancelliamo qui sotto, questo non ci serve. Lo H lo metto qui, qui ci metto l'azoto, qui ci metto l'N, il fenile e l'H. Ed ecco che cosa accade. Siamo in H+. L'H+ può fare un sacco di cose, ma quando va a protonare questo, ecco che questo entra e butta fuori questa molecola di acqua. Ora noi capiamo che c'è una ragione del perché succede questo con quel gruppo lì e non succede questo con quest'altro H o quest'altro. Perché ci sono le regole di Baldwin, che se noi andiamo a vederle, è una tabellina, dove c'è scritto quali sono preferite rispetto ad altre, scopri che questa è preferita. L'H+, l'acqua, non è un buon gruppo uscente. Come mai qui esce dunque? Questo è un carbonio che quando sarà carbocatione diventa un carbonio secondario. Non è primario. Ma quello che lo rende stabile è una cosa che non è scritta da nessuna parte. E ora la scriviamo qui. OH, N, M, fenile, H. Ho dimenticato un pezzo, sì, certo, l'ho fatta troppo corta. Aspetta, Eh sì, poverino, ho dimenticato un pezzo. Se no, non torna più. Ecco qui. H, fenile, e questo è qui. Allora, lo riscrivo qua. C, H, doppio legame, N, N, fenile, H. Ecco, vedi che si sviluppa qui proprio quella cosa che vi dicevo prima. Qui c'è un buon gruppo uscente. Dove attaccherà? Qui o qui? E voi avreste potuto pensare che si sarebbe potuta formare l'anello più largo, più grande. Sicuramente è anche più stabile termodinamicamente, ma questi orbitali si trovano meglio in front of l'orbitale vuoto di questo tipo e quindi attaccano qui, in questa posizione, formando quello che è l'anello a 5, che io scrivo qua. OH, CH2, OH, poi qui c'è un azoto con un fenile, qui c'è un altro azoto, qui c'è un doppio legame, qui c'è un carbonio, qui c'è un carbonio e qui c'è un OH, qui c'è un idrogeno e qui c'è così. È evidente che la driving force ancora una volta è l'eliminazione finale di questa molecola d'acqua. E te ti sei fatta una molecola che è un pirazolo, ma un pirazolo che mette in evidenza una cosa fondamentale, vedi c'è il doppio legame qua, quindi te la puoi scrivere così, fenile, N carbonio, a questo carbonio qua c'è attaccato un OH. OH. Questo composto qui, questo pezzo qui, è un pezzo che noi troviamo in moltissime molecole di natura bioorganica, biologica, sia sotto forma di diolo, sia sotto forma di alcol, chetone, sia sotto forma di acido. Lo vedremo fra un attimo. Tenetela presente questa molecola qui, perché con questo sistema noi ci facciamo, ovviamente, partendo da glucosidi particolari che noi abbiamo scelto, anche composti che hanno qui gruppi che ci possono servire per fare determinate cose. Per esempio, il glucosio può essere utilizzato, il glucosio ce n'è tanto in giro, scriviamo il glucosio. Il glucosio è questo qua, CHO, CH2OH, e fin qua ci siamo, OH, OH, OH, OH. È questo il glucosio, ma ci importa poco della posizione dei gruppi, cioè della stereochimica di questa molecola, perché noi faremo in questo contesto roba che non è otticamente attiva. Bene, questo noi lo possiamo trasformare nell'acido glutaconico. L'acido glutaconico è quell'acido che ha la parte alta e la parte bassa della molecola, cioè il gruppo aldeidico e il gruppo alcolico primario, tutti e due ossidati nella forma di acido. Gli altri due sono l'acido glucarico e glucaronico e glucuronico. Glucarico, glucuronico e glutaconico sono nomenclature, fottiamocene. Quello che ci interessa è che questo acido ossidato sopra e sotto, quindi per fortuna nella chimica degli zuccheri, che voi probabilmente non fate e non farete mai, si usano degli ossidanti forti, perché per ossidare questo ci sputi sopra l'aldeide e si ossida con ipobromito di sodio, cioè sostanzialmente l'acido ipobromoso. E di sotto devi ossidare un alcol primario, quindi hai bisogno di proteggere sostanzialmente tutti gli alcoli secondari e primari, deproteggere il primario, ossidarlo e poi deproteggere tutti i secondari, quindi cioè, non è banalissimo. Una delle possibilità che si usa per evitare tutti questi gruppi protettivi che non si utilizzano nella green chemistry è di fare questa reazione con l'acido nitrico. L'acido nitrico va ad ossidare solamente l'alcol primario a questa cosa qui. Io l'ho fatta questa reazione, non mi è mai venuta. No, ve lo dico perché sì, c'è scritto, ma è una cosa allucinante, un sistema vecchissimo che c'hai un cilindro di vetro in cui hai questa soluzione acquosa di glucoside e ci percoli sulla parete del vetro l'acido nitrico concentrato goccia a goccia finché non si crea un nastro, un giro, un cerchio di roba nera dove dentro ci dovrebbe essere questo prodotto di ossidazione. Mai riuscito. Già lo sapevo che non mi sarebbe riuscita quando ho provato a fare questa reazione tantissimi anni fa, ma ora ci sono degli altri sistemi, però sul libro c'è scritto con l'acido nitrico si fa, e io ve lo dico, però prova se volete, ma tanto non funzionerà. E qui ci sono tutti gli OH, OH, oh, magari siete più fortunati di me, che ne so io. Allora, mettiamoci un po' nelle condizioni di scrivere questa cosa come è fatta, così. Contiamo perché io ho 1, 2, 3, 4, 5, CH-OH, 6-COOH. Vedi come nel chiudere con le nostre regole A5 noi possiamo ottenere questo prodotto di chiusura. Questo prodotto di chiusura ha una caratteristica fondamentale. Guarda, subito qui c'ha quel gruppo di cui ti dicevo. Guarda che bello. Vedi, lo stai per riconoscere, perché poi, quando tratteremo questo signore con un enzima particolare, noi toglieremo i due atomi di idrogeno che sono qui. Guarda, togli con l'enzima, perché se ti metti a farlo con delle reazioni organiche non ci cavi la vita. E te otterrai una cosa, questa. Ti sei fatto la vitamina C. Non è male. Da glucosio non costa nulla. E vedi che c'è ancora questo gruppo qui? Questo gruppo qui che c'è, che noi possiamo ricavare anche, per esempio, potremmo farvelo vedere in quest'altra reazione. Tutta roba che noi otteniamo da zuccheri, da glucosini, da roba che si estrae dalle piante, non dal petrolio. E cominciamo a vedere come ci possiamo fare un sacco di roba veramente da queste cose qui. Guarda questa. Tanto questa reazione ci serve. Mettiamoci metile, vai, che metile, e qui ci metto metile OR. Questi, uno è un vinilettere e un'altra è una acroleina, la metilacroleina, sostanzialmente un aldeide alfabetizzato. Se le metti insieme, queste due fanno una cosa interessante, una reazione di Diels-Alder, reazione green. Perché? Reazione green. Perché non si spreca niente, non si butta via niente, e quindi ci piace tanto a noi, ci piace tanto. Sulla Diels-Alder potremmo dire milioni di cose, però tenete presente che noi abbiamo ottenuto qualcosa che possiamo, la vedi questa qui? Questo è un glucoside a 6 termini chiuso, c'è una, lo possiamo fare dal glucosio, lo vedremo fra un attimo. Però a me non mi interessa fare questo, mi interessa fare agire, questo è un vinilettere, il diidropirano è un diidropirano. Oh, il diidropirano è un gruppo protettivo degli alcoli, già. Ma a me i gruppi protettivi mi fanno schifo. Benissimo, allora io però uso questo diidropirano per proteggere questo alcol allilico, banalissimo alcol allilico. Ma non lo voglio proteggere, in realtà voglio fare un'altra cosa. Quello che accade subito, reazione green, perché non butto via nulla, è questa. E fin qua, arrivo al 100% su questo. Reazione green, trasposizione del doppio legame, lo posso fare con un rutenio idruro, come abbiamo visto qualcuna di queste reazioni, una delle prime volte che ci siamo visti. Questo doppio legame traspone qui, scrivo più lontano, e fa questo. Allora, guarda che qui abbiamo un vinilettere e qui abbiamo un acetale. Vuoi vedere che io posso fare quelle reazioni di pseudocondensazione che prendono il nome di un giapponese, che sostanzialmente sono reazioni di condensazione aldolica, ma non tra due molecole di aldeide, tra una molecola di aldeide protetta come vinilettere e una molecola di aldeide protetta come acetale. La molecola di aldeide protetta come vinilettere, vi faccio vedere qui, ve lo ricordo, insomma, la struttura del vinilettere è una struttura tale per cui la formula limite di risonanza prevede che questo atomo di carbonio sia quello negativo, cioè il nucleofilo, mentre l'acetale è una molecola dove, quando qui ci si aggancia per esempio un metallo di transizione e tira, qui si crea una parziale carica più delta, questo diventa un buon gruppo uscente e questo picchia qui sopra. Ed ecco che si è formato quello che è il prodotto di condensazione aldorica. O lo posso fare anche qui? Certo che lo posso fare anche qui. E come si fa? Termodinamicamente? Ma in tanti modi. Uno, basta scaldare. Questo fa così, e questo fa così, e questo fa così. Ah, qui c'era l'R, e qui c'era l'R. Con i due metili ti ottieni questo, R, e qui ottieni quello che è appiccicato qua, questa molecola qui. Qui ci avrà il metile, qui sopra, e qua ci avrà il CHO. Ossidi questa molecola con l'attivo di Jones, che poi è CR2O3 con l'acido solforico, in opportune condizioni, note in letteratura, te ti ottieni questo. E questo qui che cosa cavolo è? Questo è una molecola che viene chiamata lattone di Prelog e Gerassi. Ed è una molecola che fa parte di un sacco di building block, di roba, come si dice, biologicamente importante. Vedi che c'è ancora questa struttura qui, in cui qui l'OH è stato trasformato in un metile, ma c'è questa struttura. E questi metili hanno un'attività ottica precisa. Qui lo ottieni senza problemi. Ma se vuoi fare questa reazione in questo modo, per ottenere la roba otticamente attiva, lavorando con composti otticamente attivi, lo puoi fare. Lo puoi fare. Questa molecola, questa reazione qua, si fa in un passaggio solo praticamente, perché quando hai fatto la reazione di Diels-Alder, scaldi con il catalizzatore. Già il catalizzatore ti porta qui, senza bisogno di passaggi intermedi. Quindi non devi multi-component reaction, perché sono tutta una serie di trasposizioni. A questo punto ossidi con il reattivo di Jones, che è una vera cazzata, e te praticamente in due passaggi ottieni l'attone di Prelog-Gerassi, che in letteratura ce ne vogliono 22 di passaggi. Non è male. E qui vedi che hai ottenuto sempre un composto senza partire dal petrolio. Dice, ma te hai ottenuto, sei partito da questa roba. Possiamo fare questo signore qui a partire dal glucosio, se vogliamo. Dopo vediamo qualche esempio di questo. Facciamo una cosa. Vediamo se riusciamo a fare un esercizio mirato. Allora, io voglio fare un composto. Lo voglio fare e ho deciso che lo voglio fare a partire dallo xilosio. Il mio composto, perché intravedo nello xilosio la struttura fondamentale di 2,3 dimetilfurano. Voglio fare questo. Allora, se tu vai in letteratura, scopri che per fare questo bisogna fare una serie di cose allucinanti, tra cui questo in letteratura deriva dalla chiusura di chetoaldeidi 1,4. Le chetoaldeidi 1,4 sotto particolari condizioni acide chiudono per dare questo. Questa reazione in realtà ha una serie di problemi giganteschi. Perché non è vera. Cioè, i composti di carbonilici 1,4 è vero che chiudono, ma chiudono le dialdeidi 1,4 e i dichetoni 1,4. L'aldeide chetone 1,4 no. Perché? Non si sa. O meglio, se uno poi ci pensa, troverà delle spiegazioni. Però il dato è che a volte generalizzare queste reazioni che sono scritte sui libri sovente ti porta a dei problemi complicati. Problema complicato sarebbe anche l'analisi, la sintesi di un composto 1,4 di carbonilico, perché noi sappiamo fare bene gli 1,3 e gli 1,5 e male gli 1,2 e gli 1,4. Perché le regole della chimica sono queste. La chimica attacca un pezzo positivo e un pezzo negativo, i famosi building block, o come li chiamano i sintoni nella retrosintesi, come fosse il gioco delle calamite. Beh, però queste calamite, cioè i sintoni, te li devi fare, cioè ci devono essere degli equivalenti sintetici, e sovente fare un equivalente sintetico di un composto che aggancerà poi un altro composto per fare un 1,4 di carbonile non è proprio banale. Allora, forse se io faccio applico una retrosintesi qui, vediamo un po'. Ora, sapendo tutto quello che noi sappiamo, mi potrebbe venire in mente di fare una reazione fatta così. Vedete, se questo 2,3 dimetilfurano venisse fuori da questo composto, non sarebbe male. Quello che è. Però, sostanzialmente, il CH3 sarebbe l'aldeide, il metile, io lo intravedo in questo qui. Però, se vedo questo metile messo in questa posizione, vedo che qui c'ho un alcol con il metile. Ma secondo la retroanalisi dice che gli alcoli derivano sempre dai composti carbonilici per reazione, che ne so, con il reattivo di Grignard, verrebbe proprio il metilalcol. Ma siccome nel mio glucosio ce ne posso mettere, nel mio glucoside ci posso mettere solo un gruppo carbonilico, allora se questo è sotto forma di gruppo carbonilico, quest'altro ce lo devo mettere sotto forma di gruppo alcolico. Allora, questo potrebbe essere il mio prodotto di partenza. Me lo fai guardare un attimo e scopro che ha una caratteristica. È simmetrico rispetto al C doppio legame O. CHOH da una parte, CH2OH più lontano. Che vuol dire questo? Che se questo prodotto è simmetrico, io sono contento, perché qualsiasi cosa faccia, cioè chiudo a destra o chiudo a sinistra, le due reazioni sono, si chiamano convergenti, cioè mi danno lo stesso prodotto. Io non ho bisogno di poi di prendere precauzioni per fargli fare a questo composto una sola delle due cose, perché tutte e due le cose sono uguali. Allora, se questo è vero e questo è il mio prodotto di partenza, devo fare la sintesi diretta. Ho immaginato la retrosintesi, facciamo la sintesi diretta. Questo esempio ci permette di affrontare il problema della giusta forma mentis per fare le cose. Cavolo, ma come faccio? La lezione è difficile, io so solo l'organica 1 e l'organica 2, bastano. Basta tu, basta. Sappiate che c'è una legge, un principio, cioè il Malanga c'ha due o tre principi. Un principio del Malanga è: se te vuoi fare la trasformazione di un gruppo funzionale in un altro, FGI, Functional Group Interconversion, questa da qualche parte esiste. Basta fare letteratura. Se tu vuoi trasformare un cloruro in un amminoacido in un colpo solo, giocati le palle che qualcuno l'ha fatto. Quindi si tratta solo di trovarlo in letteratura. Primo principio. Secondo principio del Malanga. Se una reazione l'hai provata e non viene per niente, zero di resa, non si può dire nulla. Ma se la reazione l'hai provata e ti viene con l'1%, esiste sicuramente delle condizioni sperimentali che ti potranno permettere di fare la reazione al 99%. Su questo non c'è nessun dubbio, perché se te ne è venuta una molecola, allora perché non te ne possono venire 200? Questi sono i principi fondamentali. Ora vediamo come applicarli qui. La prima cosa che faccio è: tratto questo con il reattivo di Grignard, metti lì magnesio, bromuro commerciale. E cosa succede? Succede, dopo aver fatto però, la prima cosa che posso fare è sicuramente la chiusura del ciclo, come sappiamo, così. A questo punto tratto con il mio reattivo di Grignard. Il mio reattivo di Grignard trasforma questo composto in CH2O- metile o meno, e su questo non c'è dubbio. Il reattivo di Grignard del metile è una produzione industriale, non costa niente. Se dopo vogliamo migliorare la reazione useremo qualcosa che non dà fastidio agli altri OH, ma ma magari potrebbe essere più costoso, magari è una raffinatezza, magari è quell'organo metallo catalizzato da palladio, che va bene tutto. Però vediamo ora al primo step, come al primo grado, come sistemare la reazione. Successivamente facciamo un'altra cosa. Successivamente dobbiamo trasformare la molecola, metterci due doppi legami qua e questo qui trasformarlo per esempio in CHO, perché il CHO lo posso trasformare in CH3, il CH2OH in CH3 ce lo trasformo con qualche difficoltà. Benissimo, allora come cavolo trasformo questo? Esiste una reazione che trasforma solo gli alcoli primari sotto forma di sali di magnesio, ce l'ho già, facendoli reagire con un reagente commerciale, che è il diazo carbossilato. Cioè, te questa reazione non l'hai mai vista, non lo sai, non c'è problema. Te vuoi trasformare un alcolato primario in un aldeide. Cerchi in letteratura e trovi quella trasformazione. Come avviene questa trasformazione? Te c'hai RCHHO, O meno, e lo fai reagire con questa cosa che si chiama diazo dicarbossilato, COR dietile, COR, commerciale. Questo qui è un prodotto commerciale che costa poco, perché da cosa cavolo, perché se costa poco lo puoi fare anche te in laboratorio. Non te lo consiglio perché si ottengono delle cose un po' esplosive, e io mi ricordo che uno dei nostri laureandi per fare una molecola del genere praticamente venne iniettato fuori dal laboratorio alla velocità della luce. Cioè aveva un palloncino piccolo così da 25 millilitri con un diazo chetone dentro, quindi quello che si sta per formare è azoto nella reazione, perché c'hai un carbonio legato a un N3. L'N3 sta per diventare N2 punti, cioè un nitrene, che darà origine ad azoto, e il nitrene si accoppierà per dare azoto-azoto, doppio legame. Palloncino da 10 millilitri. Lui si è dimenticato di accendere la pompa che avrebbe sottovuoto portato via l'azoto. Gli ha fatto come l'airbag. Nell'airbag c'è NaN3, la solazide, che viene fatta reagire rapidamente con l'acido solforico. L'acido solforico sviluppa azoto, l'airbag si gonfia. Pensa a te che velocità di reazione. A un certo punto me lo vedo arrivare in laboratorio dall'altra parte, dove io avevo un altro laboratorio, che era una maschera di sangue, praticamente, per fortuna era molto miope e gli occhiali spessi così l'avevano aiutato a non a fare in modo che le schegge di vetro non entrassero nell'occhio, però gli erano entrate dappertutto, e lui aveva avuto il tempo, vedendo che qualcosa non funzionava, di abbassarsi sotto il banco mentre esplodeva questa apparecchiatura. Un laboratorio grande, quattro volte come questa stanza, non si vedeva a un millimetro di distanza. Non abbiamo più trovato neanche il sostegno, e i vetri erano delle boccette di vetro che c'erano in laboratorio, come in ogni laboratorio ci sono dei boccetti di vetro, erano perforate da proiettili di vetro che avevano passato il primo step e il secondo step. Alcuni proiettili di vetro erano rimasti dentro, cioè avevano rotto solo la prima superficie del vetro e non erano riusciti a uscire. Vetri di quel tipo lì, passati da parte a parte, palloncino da 10 millilitri. Quindi vi dico, questa è una reazione che con la green chemistry te non la puoi fare. In quel modo lì, laboratorio, no. Sull'impianto ti devi o hai l'impianto che ti fa questa roba, oppure è meglio non farla. Lo compri e si fa prima. Lo fai fare a un altro e si fa prima. Come funziona questa cosa qui? Così. E capite bene che quello che accade, che sta per accadere, è questo. Ossigeno, azoto. Guarda come si forma bene questa reazione. Qui. Questo è stabilizzato da una formula limite di risonanza del gruppo carboalcossi che ci è attaccato all'azoto. questo si piglia questo idrogeno qui, l'idrogeno che è qui fa così, e questa carica negativa va a finire sull'altro atomo di azoto che aiuta la carica negativa a stabilizzarsi, e quello che si forma è RCHO più N meno COOR NHCOOR. Tu prendi questo composto, lo ributti in acqua, ottieni NHNH e poi, se vuoi, lo puoi anche riutilizzare perché ritogli gli atomi di idrogeno con opportuna reazione. Quindi non si butterebbe via niente. E hai ottenuto l'aldeide. Ci vuole il sale di magnesio, perché se te la fai con un altro sale non ti viene. Pensa a te, perché? Perché il sale di magnesio ha una caratteristica fondamentale qui. La caratteristica stabilizzare in qualche modo questa molecola con tutti questi atomi di ossigeno che ci sono per la sua grandezza. Quindi il magnesio si complessa probabilmente con l'ossigeno di quest'altro gruppo carboalcossi, e questa molecola, siccome è stabilizzata, si forma bene, al di là del fatto che ci sia un gruppo COOR. Tutto ciò reazione va 98% di resa, eh? Quindi pensa che hai trasformato un alcolato direttamente in aldeide, e l'alcolato solo dell'alcol primario, perché quella reazione ha evidentemente una sterica hindrance grossa, e un alcol secondario potenziale che non reagiscono. Che meraviglia! Tenetela presente perché può essere utile. Sui libri d'organica non c'è scritta questa reazione, ma nella letteratura c'è. C'è perché te l'hai cercata, e io ti ho detto, sono sicuro che c'è. Quando te hai trasformato questa roba qui durante l'idrolisi, poi durante l'idrolisi acida, ecco che acida per cloruro d'ammonio, ecco che se ne va all'acqua da sola in automatica si forma la carbaldeide, che è quella che ti serve, con qui però un gruppo metile. E a questo punto te fai una bella reazione di Wittig qua sopra, se vuoi gruppo R più complicato, se no fai la reazione di Wang Min, cioè idrazina e OH-. Wolf-Kichner. Wang Min è la variante di una reazione di Wolf-Kichner. Ricordatevi Wolf-Kichner. Wang Min è solo un metodo migliore, più industriale, che fa la reazione senza togliere l'acqua, perché non serve togliere l'acqua. Basta scaldare 200 gradi e vedrai che l'acqua viene schizzata fuori. Sostanzialmente Wang Min fanno lo stripping della reazione industriale. L'hai fatto, hai fatto quello che volevi te. Quindi, qual è il modo che, come si dice, il giusto punto di partenza? Lo voglio, intravedo che questa reazione può essere fatta dall'oxilosio. Alcune reazioni le so fare e altre trovale. Cercala in letteratura perché ci sono e le puoi fare. C'è un piccolo problema che è un problema legato al tempo che tu hai a disposizione, e ovviamente alcune volte queste reazioni le fai in una settimana, due settimane di tempo, le metti a punto. La reazione che vi faccio vedere ora ci sono voluti 8 mesi. Però dopo, quando la vai a rifare, ci metti 3 giorni. Cioè, da un punto di vista impiantistico, lo puoi fare tranquillamente. Questa è una domanda. Sì. Noi per avere la chiusura del ciclo, lavoriamo in ambiente acido. Sì. Però, arrivati al ciclo, per lavorare, per andare a trattare poi con il reattivo di Grignard, devo purificarlo? No. Però se ho gli idrogeni acidi, sì, come faccio? Ma infatti ci ho messo 3 molecole di reattivo di Grignard, vedi, okay, che è scritto o meno. Okay. Butto via 2 metilmagnesi bromuri. Se te non lo vuoi fare, questa è una ipotesi, perché a me piace fare le cose rapidamente. Se te non lo vuoi fare, c'è un sistema di protezione del diolo in alto, okay, e lo proteggi, però dopo lo devi sproteggere. Dipende da un po' la situazione in cui te ti trovi, oppure troviamolo, perché c'è il modo di far agire questo composto carbonilico con un reattivo organometallico che non reagisce con gli alcoli, Lo troviamo, ci sarà un metodo, una catalisi. Io, diciamo, me la sono inventata come si dice, abbraccio questa reazione qui, perché si può fare sicuramente, la cosa più semplice con le poche cose che sappiamo. Ma da questa schema di partenza, poi ti dici, voglio migliorare le cose. E allora vediamo un po', come posso fare in un altro modo? Posso fare prima un passaggio e dopo fare quell'altro? Posso fare tutto insieme? E allora ti vengono in mente le varie... Però questa lavagnata di roba serve solo a dire se può fare. Con delle rese che hanno un significato, perché se chiaramente le rese o i prezzi o i costi fossero proibitivi, te parti così da una molecola che non costa nulla, sostanzialmente. E usi un reattivo di Grignard che non costa nulla perché veramente te lo danno a sbroscio, sostanzialmente. Ma ammetti di essere in un'industria che quel reattivo di Grignard lo fa a tonnellate, ecco che non lo devi comprare. Se quell'industria invece facesse un altro prodotto che potrebbe servire, devi vedere est modus in rebus, in quale contesto produttivo sei, e magari puoi cambiare questa reazione sulla lavagna. Allora, vi ricordate, ho detto, per esempio questo, o metile. Beh, questo si può fare sicuramente dalla reazione di Diels-Alder. È vero, si può fare dalla reazione di Diels-Alder, e questo è un composto sicuramente utile. Perché? Lo sapete perché? Perché trattando questo con alluminio triisobutile, si era scoperto che l'alluminio triisobutile, quindi RCH2CH3H CH3, si complessava questo coso qui. Questo qui, sotto forma di idruro, dava una reazione di questo tipo. Oh, guarda caso, vedi che è sempre la stessa reazione. C'è una reazione di condensazione che questa volta però viene fatta in un ambiente riducente, e quindi invece di ottenere l'aldeide tra te ottenevi l'alcolato, che dopo idrolisi ti avrebbe dato l'alcol, perché l'H finisce qui, qui è O meno AL. È evidente, se vuoi lo scrivo anche meglio, così, così si capisce bene, che lo puoi razionalizzare sotto forma di alcol. La cosa interessante è che quello che si formava era questo, ORCH2OH, totalmente trans. Non solo la cosa interessante era questa, ma quando questo lo riossidavi, ORCHO ad aldeide, questo da solo interconvertiva nel prodotto di partenza. Tutte reazioni green perché non hai fatto niente, però hai fatto un giro che non ti serve a nulla, no? La Santissima Trinità, come dissi una volta a uno studente che venne a chiedermi la tesi, questo era uno studente normalista, che si dava spocchioso, come tutti, sovente molti normalisti si danno un sacco di ari, perché vivono in una realtà duale dove l'ego e il bisogno è fondamentale, perché quando te sai di essere l'universo, l'altro non lo vedi come un nemico o come uno più stupido di te, lo vedi come quella parte di te che non ha acquisito la consapevolezza che hai te, al massimo. E lui mi chiedeva se cosa stavo facendo io di ricerca, perché così magari poteva prendere in considerazione l'idea di venire in tesi con me. Mi concedeva questo privilegio. Esattamente, sì. E allora io lo guardai e dissi, sì, io sto facendo la Santissima Trinità. Cioè, mi guarda, come? Sì, sì, è un modello di Santissima Trinità chimica, Padre, Figlio e Spirito Santo, che si interconvertono tra di loro. E mi feci vedere questa reazione. Questo soggetto iniziale si interconvertiva nell'alcol, Padre, il figlio, e poi il figlio veniva ossidato a Spirito Santo e lo Spirito Santo si rinconvertiva nel padre. Morale della favola, dicevo, vedi, questo modello che cosa rappresenta? Rappresenta il fatto che Dio, se esiste, serve solo per trovare l'energia necessaria attraverso una reazione di ossidazione e di riduzione che si compensano tra di loro. Quindi Dio ha creato l'universo solo per ciucciargli l'energia. Non l'ho più visto. Però questo era quello che succede, no? E succede così. Allora, la cosa interessante è che questa molecola qui può essere un gruppo, una cosa di partenza di un feromone naturale che si chiama grandisolo. Il grandisolo, pensate, è una molecola un pochino più complessa di questa, c'ha qui un gruppo CH2CH2OH e qui un metile, che poi ci abbiamo aggiunto in seguito, con una stereochimica precisa, tutta la stereochimica trans, quella che volevamo noi. Questa molecola dà esattamente il trans, non dà il cis in queste condizioni di reazione, e questo lo fa, che se te lo vedi fatta così, questa molecola è fatta così, ossigeno OR. Te prendi questi orbitali qua e scopri che questo orbitale qua, per buttare fuori il gruppo uscente, che sarà questo, perché questo è il gruppo, qui c'è l'alluminio che con tutta la sua catena poi butta fuori l'idruro qui dentro, questo orbitale si deve piegare così per buttare fuori questo. È una sostituzione nucleofila, identica a quella che ne so, conosciamo degli alcoli con le COCl2, insomma, e viene fuori solo che questo si alza in alto, l'OR è in basso, quindi quando si forma questo legame qui, per formare il ciclobutano, i due sostituenti sono in trans, tutti in trans. Non c'è un cis neanche a pagarlo. Bene, è proprio quello che si arriva. Anche perché il grandisolo in forma cis, cioè l'altro stereoisomero, non è un feromone importante di una blatta dell'America Latina che distrugge il raccolto, quindi cercare di ottenere un feromone era fondamentale per la green chemistry, perché te prendevi questo feromone, lo mettevi al lato del campo, tutti questi baccherozzoli andavano ad annusare il feromone e non rompevano le palle alle culture. Funziona così. Bene, l'altro feromone, quello cis, era in realtà un attraente delle piante, della stessa zona dove viveva questa blatta. Cosa era successo? Che queste piante, nella storia della sua evoluzione, della loro evoluzione, non le fecondava più nessuno. Allora la pianta, nel tentativo di riuscire a trovare qualcuno che gli zampettasse sui pistilli e gli venisse a rompere le palle e quindi le fecondasse, ha sviluppato un odore simile a quello del feromone della blatta. La molecola è simile, solo che invece di essere il trans è il cis. La blatta sente l'odore del maschio o della femmina, non mi ricordo quale dei due feromoni era, e va a sentire da dove viene e scopre che non è quello, perché cerca di fecondare una pianta, ma la pianta è contenta perché ha preso per il culo la blatta in qualche modo e lei si è fecondata. Guarda che la natura è forte, no? Beh, è importante perché la green chemistry è fatta anche di queste cose qui. Allora, sostanzialmente, il problema era di farlo lui otticamente attivo, perché il prodotto che noi volevamo fare era otticamente attivo. E come cazzo faccio a farlo otticamente attivo? Devo partire da una cosa otticamente attiva, cioè se era deciso di partire da una cosa otticamente attiva che costa poco e che è commerciale e che viene dal glucosio. Allora noi abbiamo usato l'idea di partire da questo coso qui, otticamente attivo, metile. Questo coso qui, otticamente attivo, non poteva venire dal questo O metile, OH, OH, OH, glucosio, otticamente attivo. Chi se ne frega? Ah, qui c'è un CH2OH. Questo è il glucosio, sotto forma chiusa. A me mi interessava l'attività ottica di questo signore. Se parto dal glucosio, lo posso fare. Che ne so, proviamo, e abbiamo provato. Ma per farlo, allora, la strategia è sempre la stessa, non ci preoccupiamo, vuoi vedere che c'è un sistema per farlo? Facciamo tanta letteratura, impadroniamoci del problema glucosio, sappiamo tutto sul glucosio, noi e il glucosio. Dopodiché abbiamo pensato di cominciare a pelare, staccando come fossero dei peli, ogni OH con qualche reazione. La prima idea era, ma trasformiamo questo, idea, punto interrogativo, trasformiamo questo in questo. Questo rimane qua, CH2OH, OH. Idrogeniamolo in qualche modo e otteniamo questo. Trasformiamo questo in questo. E facciamo reagire questo con quello che vogliamo. Per fare questo, 8 mesi. Ma non perché ci vogliono 8 mesi, perché abbiamo usato un sacco di reazioni diverse per vedere qual era che veniva meglio. Quindi io vi dico quella che sembra che ci vuole 5 minuti, ma per trovare questi 5 minuti ci è voluto 8 mesi. Allora, si prende il glucosio, si compra, non costa nulla. Si prende già metilato, almeno fammelo già metilato, ma insomma si può metilare facilmente col metanolo, quello lì. Quindi concedimi questa fatica. Io ero arrivato a un punto nelle nostre reazioni di chimica organica che noi nei laboratori non avevamo più soldi. E quindi io sono arrivato un giorno ad aprire un armadio e a dire vediamo cosa possiamo fare con quello che c'è. E ho fatto una tesi con 350.000 lire e ci ho fatto 5 pubblicazioni. 350.000 lire, guardando solo quello che c'era nel laboratorio, nell'armadio, perché non avevamo più soldi. Ma vedi che la scienza si fa in 3 modi fondamentali: con i soldi, certo, se non ce l'hai è un casino, con le persone, perché se non ce l'hai le persone è un casino, e con le idee. Guarda che se non c'hai le idee siamo rovinati. Quindi l'insegnamento mio, insomma, la mia ispirazione di oggi è: non vi preoccupate se può fa, sempre. Come si fa? Si cercano quelle reazioni che trasformano una roba fatta così in una roba fatta così. Ci sono? Sì, ci sono. Qual è quella che noi abbiamo usato? Questa. Abbiamo preso. Ma ne potete trovare un bel po'. Quella che ha dato frutti è stato trasformiamo questo in tosilato. Vabbè, ora vediamo la reazione qui. Trattiamo questo con NaI, ioduro di sodio. Sapete che si forma una reazione in cui qui c'è lo iodio, e il tosilato viene buttato fuori. Perché? E qui già si impara un'altra cosa, che l'acido iodidrico è un acido più forte dell'acido paraffinico solforico, perché sennò quella reazione non avverrebbe. L'acido iodidrico è l'acido più forte dell'acido solforico. Questo va preso in considerazione. Io non lo so se voi avete questa sensibilità di capire questa cosa qui, però quando si parla di acidi forti sembrano tutti forti uguali, no? Invece no, c'è una bella differenza. Beh, ma qui voi sapete che se io tratto questo con iodio ottengo questo, e lo sapete che questa è una reazione reversibile. Allora se ti metti in condizione di reversibilità, lo iodio si stacca da solo. È un po', se volete, quella stessa reazione che si forma quando voi avete un alchene sulla lastrina e lo spruzzate e lo mettete nella camera con lo iodio cristallino. Lo iodio cristallino, cioè i vapori di iodio sublimato, si agganciano al doppio legame, come vengono assorbiti meccanicamente dalle molecole organiche, ma se te c'hai un alchene ti si aggancia proprio e fa quella roba lì. Ma questa è una reazione reversibile, perché lo iodio è grosso e 2 atomi di iodio così insieme non ci stanno, quindi tendono a ridare iodio che sublima, se ne va per i cavoli suoi, lasci la reazione libera. Dopo un po' la lastrina che hai tolto dal contenitore dove c'è lo iodio ritorna bianca, cioè non vedi più la macchia, perché lo iodio si è distaccato. Quindi in quel contesto noi abbiamo ottenuto il doppio legame. Trasformazione di OH in buon gruppo uscente, trasformazione del buon gruppo uscente in un miglior gruppo uscente, eliminazione del miglior gruppo uscente. Avresti potuto tranquillamente, questa è la reazione che viene da sola, usare zinco. Lo zinco su questa molecola qui avrebbe dato l'alchene più iodo di zinco, ZnO2. Precipitava in soluzione, non poteva più fare quello che stava facendo, lo iodo di zinco non dà fastidio a nessuno degli altri gruppi, fatto. Prima di fare questa reazione, perché sennò si tosila tutto e diventa un casino, ma si può anche fare, abbiamo dovuto proteggere questi due gruppi OH. La chimica dei gruppi protettivi dice che basta usare la benzaldeide. La benzaldeide nel glucosio chiuso fornisce da sola, senza problemi, CH2O, O, scrivo così, H fenile. Addirittura questo gruppo è otticamente attivo, stereoeletto, cioè sente l'induzione asimmetrica di tutti gli altri centri chirali e lui è otticamente attivo, con alta purezza ottica. Quindi cristallino, perfetto. Hai fatto hai utilizzato la benzaldeide per fare questa cosa. Benzaldeide che poi quando la ributti fuori ritorna benzaldeide. Quindi in realtà non hai buttato via niente. La benzaldeide la puoi riutilizzare tranquillamente. A questo punto noi che cosa avevamo? Avevamo questo, o metile, CH2, OH. Dovevo trasformare questo in un doppio legame. Come cavolo faccio? Vado in letteratura e cerco trasformazioni di un diolo 1,3 in alchene. E vedrai che qualcosa troverò. Ce ne sono diverse di cose. Quella che è stata utilizzata è la seguente cosa. La trasformazione non del CH2OH in alchene, ma del CO OH in alchene. Nessun problema. Ossidazione dell'alcol primario rispetto a tutti gli alcoli secondari in ambiente basico che si fa con ossido di protico. Va bene. È un'ossidazione che puoi usare anche l'MnO2 sostanzialmente in certe condizioni di reazioni o comunque ossidanti basici. Perché siccome te stai lavorando su un acetale, se l'acetale ti si riapre, sei fregato, perché quando si richiude, racemizza. Te quell'acetale lì, in tutte queste reazioni, non è mai stato aperto, l'ho sempre messo in piridina, in dietilammina, in tetraidrofurano, ma al massimo, ma mai in acqua, mai in H+, mai in un acido di Lewis. Un composto fatto così dà l'alchele se io lo faccio reagire con NN-dimetil carbaldeide di alchil acetale. Cioè la N-dimetil formammide. Ho preso la NN di metilformammide di isoamil acetale, cioè un gruppo alcolico bello grosso, solo perché mi sposta l'equilibrio, perché sennò anche il metile andava bene. Prodotto commerciale, non costa nulla. Quando lo faccio reagire qui, in presenza di un agente essiccante, cioè togli l'acqua, quello che si forma è questo composto qui, CHN-metile-metile. Ma questo composto qui ha questo azoto qui, e questo azoto fa una bellissima cosa. Questo azoto qui fa una bellissima cosa, cioè ci manca un ossigeno. Una bellissima cosa. Quando gli viene in mente di far così, lui fa così, questo fa così e questo fa così. E tutto questo giro di elettroni serve a trasformare questo composto in un alchene. la NN di metilformammide non ci dà fastidio e si forma CO2. L'unico problema di questa reazione è che ho tolto una molecola di CO2, quindi la critica è, se vuoi, ho perso un pezzo. Però ne valsa la pena, perché ottengo una molecola otticamente attiva ad altissimo valore, con un eccesso enantiomerico identico a quello del glucosio di partenza, cioè 99,9%, senza nessuna racemizzazione nel processo, che io posso usare come chione per fare la mia reazione ed ottenere in un colpo solo il grandisolo otticamente attivo. Capite bene che ne vale la pena, cioè, come al solito, no panic, noi sappiamo fare la reazione, anche le reazioni che non abbiamo mai visto, non vi preoccupate, se voi intravedete un nucleo pirrolico, furanico, anche chiofenico che può venire dal furano, o anche piridinico, un eterociclo, ma anche un composto aperto che può venire da un eterociclo, Meyer, quello delle ossazine di Meyer, non so se ne avete mai sentito parlare, Meyer ha scritto un libro su cosa fare quando ci avete gli eterocicli, cioè utilizzare gli eterocicli per fare composti chimici, non la chimica organica per fare gli eterocicli, che è una vecchia, è un vecchio modo di analizzare le cose. Quindi, perché questi due, tre esempi che vi possono apparire un po' complessi? Solo perché potevano apparire complessi prima, ma quando li abbiamo fatti, sostanzialmente li andate a rivedere, dice, sì, però si poteva immaginare, no? Una reazione così. Sì, è vero. Una volta che tu perdi tempo nell'industria, se hai bisogno di fare questo coso qui, che sarà un farmaco o darà origine a un farmaco molto importante, che costerà un sacco di soldi, devi sprecare. Io ci ho messo 8 mesi, ma perché eravamo in uno a fare le cose, ma se eravamo in 5 è chiaro che ci volevano 3 mesi e i costi della ricerca si abbassavano enormemente. Quindi alla fine poi potevi mettere in produzione questa roba guadagnandoci un sacco di soldi. Ecco, bisogna tenere presente tutto questo. Tenete presente che nell'industria di solito c'è sempre uno che fa la letteratura perché non è capace di stare in laboratorio, e allora, perché sennò fa saltare tutto, lo mettono a fare letteratura. Quindi c'è te, invece, noi eravamo quelli che facevamo le reazioni, il laboratorio, scrivevamo i lavori, cioè devi fare tutto. Dovevi cercare i fondi per la ricerca. No, non è possibile, no? Bene, questo per dire. Il concetto fondamentale, ci fermiamo qui, è il seguente. Per quanto riguarda una reazione che te puoi scrivere su un libro, se hai le competenze di chimica e che sai grosso modo che la reazione si può fare, ma non conosci gli step veri, cioè le condizioni vere, sai solo che si può fare, trovi in letteratura sempre quella trasformazione di gruppo funzionale che ti permetterà di farlo. Non subito non dire no, ma questo come faccio? Pensiamoci, no? Questo vale anche per un discorso un po' filosofico che dice che noi siamo i creatori dell'universo. E se la reazione non esiste, nell'istante in cui l'abbiamo pensata, da qualche parte qualcuno l'ha fatta. Pensateci un attimo, perché le cose stanno in questa direzione, anche se vi possono sembrare incredibili.